Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben trovati a Salva Danaio. Eccoci ad un nuovo appuntamento nel corso del quale vorremmo parlare dei modi con cui vengono compiute le scelte di investimento delle famiglie italiane. Scelte di investimento, certo che farle in questo periodo non è facile, anche perché anche se il nostro paese ha un tasso di risparmio ancora piuttosto alto, per molte famiglie la capacità di accantonare risorse negli ultimi tempi si è ridotta. Non è neanche facile fare consulenza, perché oltre a dover suggerire i prodotti giusti ai mercati giusti, con questi chiari di luna dei mercati, il consulente deve fare anche un po' lo psicologo del risparmiatore, che chiede di essere rassicurato, chiede di essere protetto. E questo naturalmente è un presupposto che va detto, va precisato. Nei giorni scorsi ci ha colpito un'inchiesta condotta dall'associazione Altro Consumo, che, come fa sempre per costruire le sue indagini, ha inviato i suoi esperti travestiti da clienti in 80 banche, intese come 80 sportelli fra Milano, Roma e Torino, per verificare come venisse effettuata l'attività di orientamento a risparmio fra la clientela. E i risultati non sono stati ritenuti soddisfacenti, perché secondo Altro Consumo i consigli sono dati allo sportello in maniera frettolosa, senza rispettare i criteri di adeguatezza imposti dalla cosiddetta direttiva MiFID. Poi, per chi non se la ricorda, vi spiegheremo anche in cosa consiste questa direttiva comunitaria. E allora oggi ce la facciamo raccontare questa inchiesta, ma noi faremo anche un passo avanti da questa rilevazione, dalle criticità emerse, per aiutare anche i nostri ascoltatori a capire come intercettare una consulenza non adeguata. Allora noi intanto vorremmo sentire le vostre esperienze, come sempre raccontatecele all'800 24 0024, sia che siano insoddisfacenti sia che invece siano state soddisfacenti, perché poi chiaramente noi siamo sempre un po' abituati a rilevare le criticità delle cose, ma naturalmente ci piacerebbe raccontare anche quando le cose funzionano. E noi le vostre esperienze le commenteremo intanto con la stessa Altro Consumo, Anna Vizzari, ufficio studi economico giuridici di questa organizzazione. Anna, buongiorno, bentornata a Salva Danaio. Oggi al telefono, curiosamente, perché l'abbiamo disturbata in un altro impegno a Roma. Saluta il collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, Marco Loconte. Marco, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Lo sai che sei anche lunedì con noi, sì? Per sì? La previdenza complementare. Aiuto. Adesso lo sa tutto Obbedisco. Il mondo, per Va cui non puoi esimerti appunto dal ritornare. E ringrazio e saluto di essere con noi oggi a Salva Danaio Carlo Giausa, responsabile dei servizi di investimento di FinecoBank. Benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Fineco, non è un caso che abbiamo invitato questa società, perché proprio in questi giorni ha terminato un tour per tutta Italia, si chiama il Fineco Financial Village, a cui io ho partecipato, per cui sgombriamo subito il campo dal conflitto di interessi che qualcuno che mi ha visto in giro per l'Italia in questo periodo potrebbe sollevare. E però insomma lo raccontiamo perché il tema della consulenza è stato il tema centrale degli incontri che Fineco ha organizzato con i suoi promotori finanziari, ma anche con i clienti che poi ha invitato appunto a seguire alcune tavole rotonde dedicate all'andamento dei mercati finanziari, per cui ci interessa proprio anche capire come nell'ambito della categoria questa problematica di una consulenza che in certi ambiti, su certi canali, viene ritenuta non soddisfacente, come viene appunto percepita. Vi ho ricordato i numeri per intervenire, ve li ricordo: 800 24 0024 per le telefonate in diretta, 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Le questioni principali della seduta di borsa ve le ho già raccontate in apertura nel giornale radio. Vi ribadisco che l'Europa tenta adesso un rimbalzo un po' più consistente rispetto a quello dell'apertura: più 0,4 Parigi, più 0,8 Francoforte, più 0,7 Londra. Milano ancora non riesce a segnare il più, eccolo, lo fa adesso, più 0,02% per il FTSE MIB, ma per il peso dei titoli bancari ancora Milano è la maglia nera d'Europa. Anche se non sono, per la verità, solo le banche stamattina a scendere, c'è una situazione un po' differenziata: A2A meno 1,71, Lottomatica, Buzzi, Unipol, Fiat perdono un punto, Fondiaria in attesa di schiarire le modalità dell'aumento di capitale perde lo 0,8%. E andiamo a vedere i segni più, che sono sul Banco Popolare che recupera il 2,36%, Autogrill più 2, Mediaset più 1,78, un rimbalzo di Finmeccanica più 1,50, Monte dei Paschi più 1,49%. Tenta anche un recupero l'euro sul dollaro a 1,33,56. Cominciamo con il nostro tema. Anna Vizzari, Sì, allora, buongiorno. Buongiorno. Anna, io tra l'altro vabbè, qualche volta mi trovo in difficoltà a dare lei a degli ospiti storici di Salvadanaio, quindi rivado con il tu, Anna, perché ormai ci conosciamo da tempo. Va bene, perfetto. Sei stata tra i tuoi colleghi a vestirsi appunto da risparmiatori per andare un po' a verificare come in banca si fa la consulenza sui servizi di investimento. Sei tra loro oppure hai solo coordinato troppo... l'inchiesta? Sono troppo riconoscibile oramai. Ah sì, infatti. Allora, come avete... Quindi, insomma, hai preferito mandare qualcun altro. Allora, andiamo un po' sul serio. Intanto, chi era l'interlocutore cercato in banca? Allora, niente, la nostra inchiesta voleva un po' fare luce su quanto purtroppo una normativa che è entrata in vigore dal 2007, purtroppo in realtà... in Italia ancora non ha una effettiva attuazione, perché l'obiettivo della famosa normativa MiFID di cui abbiamo parlato prima era quello di trasformare in pratica l'operatore di banca in un consulente indipendente che facesse veramente l'interesse del cliente e gli offrisse l'investimento, il prodotto finanziario più adeguato e più appropriato per il suo profilo di investitore. E come fare questo? Attraverso le domande che erano indicate nel famoso questionario MiFID. La nostra inchiesta, come si è svolta la nostra inchiesta? Abbiamo fatto un mystery shopping sostanzialmente, ci siamo vestiti da potenziali clienti, abbiamo visitato i vari sportelli bancari dicendo di avere una certa disponibilità di denaro, un certo orizzonte temporale e quindi chiedendo i consigli di investimento ai consulenti di banca. Anna, il profilo che si è presentato in questi sportelli bancari praticamente era identico ovunque, tanto per avere poi dei termini comparativi allora, precisi. I profili in realtà erano quattro, uno di bassissimo rischio perché erano 20.000 euro però con un orizzonte temporale di 18 mesi, un altro medio rischio l'abbiamo definito perché l'orizzonte temporale era di 5 anni, sempre 20.000 euro, un altro con un orizzonte temporale un po' più lungo di 10 anni e infine quello ad alto rischio, orizzonte temporale di 20 anni, il rilevatore si presentava proprio come una persona disposta a rischiare e disponibile anche a perdere il denaro perché ne poteva fare tranquillamente a meno. Quindi sostanzialmente dei profili anche di rischio differenti, quindi ovviamente anche i consigli dovevano essere differenti appunto perché basati su queste specifiche caratteristiche. Cosa è successo? Che nella maggior parte dei casi i consigli sono stati identici, nonostante i profili di rischio fossero differenti. Quindi abbiamo raccolto moltissime offerte in riferimento a polizze vita e in riferimento soprattutto alle obbligazioni bancarie, senza tener conto della durata del prodotto che veniva consigliato, che magari mal si conciliava con l'orizzonte temporale richiesto dal cliente e soprattutto senza che venissero fatte le famose domande del questionario MiFID. Soltanto in un caso abbiamo trovato un consulente che ci ha dedicato addirittura un'ora del suo tempo, ci ha fatto compilare il questionario, consegnato, ci ha dato delle indicazioni che poi erano anche in linea con il profilo. Allora, quello che io volevo subito precisare è che naturalmente niente di male se una banca vuole vendere la propria obbligazione piuttosto che una polizza di casa propria, anche perché dobbiamo ricordarlo, negli ultimi anni le banche hanno avuto, come dire, il credito interbancario talmente paralizzato che ovviamente hanno dovuto fare raccolta anche attraverso diversi canali e quindi è chiaro che hanno cercato di farlo con la propria clientela anche attraverso questi sistemi. Poi, altro problema, Marco, magari qua aiutami tu, non è che poi tutte le banche abbiano una cosiddetta architettura aperta, quindi possano vendere anche prodotti di altre società e quindi è chiaro che con un cliente magari da tanto tempo si cerca di piazzare il prodotto di casa propria, ma ti chiedo, poi magari andremo ad analizzare anche altri aspetti dell'indagine di altro consumo. Secondo te, per voi di Plus che vi siete inventati anche la Candid Camera, quindi le rilevazioni come le fa altro consumo le fate anche voi per il giornale, è davvero tutto così negativo questo panorama? La MiFID viene così completamente, a tuo avviso, disattesa, trascurata, insomma? Beh, allora, insomma, a me piace rispondere alle domande senza fare tante premesse. E senza girare, diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi la MiFID è disattesa o quantomeno viene digerita in una eliofilizzata, anzi eliofilizzata prima e digerita dopo, nel senso che se il problema è il questionario, beh, lo si fa sostanzialmente standardizzato e lo si standardizza al fine di trovare delle soluzioni che siano poche e standard, due o tre al massimo, in modo da declinare i diversi gradi di rischio con strumenti che comunque non vadano contro gli interessi del collocatore. Per cui è vero, la MiFID viene sostanzialmente poco applicata, se non del tutto disattesa. Quello che manca è l'aspetto sanzionatorio, perché oggi come oggi, con come dire, l'entrata in vigore di questa normativa che va a integrare il testo unico della finanza e quindi è legge operativa nel mercato finanziario italiano, questi comportamenti sarebbero sanzionabili. A sanzionare dovrebbe essere la Consob. La Consob, senza trovare scusanti, ma evidentemente negli ultimi tempi ha subito un processo evolutivo che ha portato all'uscita del precedente presidente Lamberto Cardia, all'arrivo del nuovo Giuseppe Vegas, che sarà chiamato a questa responsabilità, o quantomeno interpretare la legge in essere per capire se ci sono gli estremi per interventi sanzionatori oppure no, come nel recente passato, con la precedente gestione, sostanzialmente è stato applicato, se non in rarissimi casi. Allora, Carlo Giausa, ovviamente per completare il primo giro di domande, prima di andare alla nostra prima pausa, vorrei sentire anche lei che cosa pensa rispetto a tutto questo. Chiaramente non parliamo di una società che vende prodotti al canale bancario. Fineco fa un altro tipo di distribuzione dei propri prodotti di investimento attraverso una rete piuttosto ampia di promotori finanziari. In questo caso, a prescindere poi dal lavoro del promotore finanziario, vi chiedo proprio così un commento a nudo rispetto a quanto scoperto e appurato sul campo da Altro Consumo. Ma io vorrei fare prima una puntualizzazione iniziale. L'obiettivo di MiFID è sicuramente aumentare le tutele per i risparmiatori, non è quello di trasformare in un consulente indipendente l'operatore, il collega dello sportello, perché ovviamente sarebbe qualcosa di irrealizzabile. Allora, ciò posto, e non è una cosa di poco conto, io ho notato nei ormai 3 anni dell'applicazione di MiFID, che è stata molto graduale, allora innanzitutto un aumento dell'attenzione di Consob soprattutto all'applicazione effettiva di questa direttiva e non soltanto all'aumento delle carte firmate in maniera più o meno corretta. Per cui da questo punto di vista noi lo viviamo perché siamo soggetti vigilati. Consob è veramente in prima linea, come anche gli altri fra virgolette vigilanti europei, per far sì che aumentino le tutele degli investitori, e questo lo abbiamo visto con tantissimi provvedimenti di natura regolamentare che cercano di far sì che il cliente risparmiatore finale sia molto più tutelato, e vi posso garantire che lo è, soprattutto esempio nelle emissioni obbligazionarie di cui qualcuno, la signora di Altro Consumo, ha parlato. Per il resto, secondo me è una rivoluzione culturale, ci vorrà ancora qualche anno, qualche altra esperienza in giro per l'Europa ci dice che il sistema bancario italiano si sta orientando per il verso giusto. Poi il modello di business che ha adottato la banca che rappresento è un po' particolare rispetto al sistema tradizionale, nel senso che comunque abbiamo un azionista importante che è Unicredit, ma è stato lo stesso azionista a stabilire che noi prendessimo la strada della distribuzione dei prodotti di terzi, questo senza nessun vincolo. Benissimo, allora intanto abbiamo sentito in questo primo giro di domande le prime riflessioni, alle quali poi legherò anche quelle che stanno arrivando da casa al 349-238-6666 anche all'800-24-0024. Mi stavo distraendo perché nel frattempo, mentre cito i numeri, leggo anche contemporaneamente. Allora arrivano molte considerazioni interessanti, un minutino di pazienza, ve le leggerò tutte tra pochissimo. Eccoci ritrovati a Salva Danaio. Questa mattina stiamo parlando di consulenza finanziaria, ma vedo che come dire, stiamo sollevando anche un bel po' di attenzione da parte da direttamente addetti ai lavori, sia promotori finanziari che consulenti indipendenti. Molti ci stanno scrivendo. Volevo segnalare agli ascoltatori che ci stanno facendo delle domande su in che cosa è meglio investire in questo momento. Non è il tema di stamattina, sugli scenari finanziari, a parte il fatto che non lo sappiamo e magari a saperlo staremmo tutti da un'altra parte. Gli scenari di mercato li affrontiamo in una puntata conclusiva della settimana venerdì prossimo, quindi fra 2 giorni, per cui questo è un po' il tema. Oggi quello di cui parliamo è sì magari dove investiamo, ma soprattutto con che approccio investiamo, che tipo di consulenza cerchiamo e come facciamo anche ad intercettare una consulenza che non è appropriata alle nostre esigenze. Questo è stato peraltro il tema di questa inchiesta condotta sul territorio da Altro Consumo, dalla quale siamo partiti per così un po' anche cercare di capire se questo è un mondo che viaggia tutti in questa maniera, se ad ogni sportello bancario nel quale ci infiliamo diciamo, appunto, la consulenza viene fatta in questa maniera così frettolosa. I consulenti, secondo Altro Consumo, non dedicano alla persona che chiede un orientamento più di 20 minuti, insomma rarissimi casi in cui il consulente spende un po' più di dialogo con la persona che dovrebbe essere assistita. E insomma, quindi i problemi sono tanti, anche se poi anche i passi avanti fatti negli ultimi anni sono tanti, perché questo va riconosciuto. L'oggetto anche della nostra discussione di stamattina è questa MIFID, questa direttiva che qualche anno fa, con qualche anche contestazione molto forte, perché in molti pensavano che sarebbero stati solamente nuovi adempimenti a carico della banca, quindi tanta carta inutile, in realtà insomma in base a questa MIFID le persone dovrebbero essere seguite studiando bene il criterio di adeguatezza, il profilo di rischio di ognuno, e però insomma qualche problematica nell'applicazione radicale di questa direttiva è emersa questa mattina. Sentiamo un paio di ascoltatori, poi continuiamo la nostra chiacchierata, cominciando con Tommaso da Cuneo, che saluto, buongiorno. Buongiorno a lei, complimenti per la vostra trasmissione. Posso fare un attimo il controcanto? Si parla tanto diciamo di diritti, perché è normale, però parlerei anche di doveri. Quando si investe, una volta che si è firmato il contratto, l'ignoranza non conta. Se le cose bisogna informarsi e saperle un po' prima. Secondo me questo andrebbe molto evidenziato, nel senso che, a parte il caso, a mio avviso, Parmalat, dove è lampante, diciamo, che la colpa, diciamo, non e è... E lì c'era una truffa, Tommaso, esatto, certo. Però in molti casi dove non c'è appunto la truffa, si firma, si fa qualcosa, fidandosi, però normalmente non si legge, non ci si informa e si pensa sempre che sia la colpa degli altri. Un po' il messaggio che sta passando a tutti i livelli oggi, diciamo, nelle varie televisioni. Questa è la mia idea. Grazie Tommaso. No, peraltro, guardi, alla luce di questo io rimarco un po' la considerazione che fa, anche se non la sposo integralmente, perché dopo che è scoppiata la crisi abbiamo assistito, almeno io ci ho fatto caso, ad una proliferazione sul territorio di convegnistica, di iniziative dedicate all'educazione finanziaria, come a voler enfatizzare, magari qui chiedo aiuto anche a Marco, il fatto che siamo comunque noi come clienti della banca e del consulente a dover per forza di cose migliorare la nostra emancipazione in termini di preparazione, e questo è sicuramente vero. Però l'industria, secondo te, ha fatto anche un po' di autocritica rispetto a come vengono distribuiti, come sono stati collocati in passato i prodotti? Insomma, se l'ha fatta l'autocritica, beh, insomma, la decidano i lettori, i risparmiatori. Non lo so, è vero che sono mercati diversi. Oggi abbiamo ospite chi si occupa, per esempio, di una rete di promotori finanziari. I promotori finanziari sono dei consulenti professionisti che collocano i prodotti della propria casa, quindi sono in potenziale conflitto di interesse, che poi esplicitano, che poi cercano di compensare in mille modi, per esempio collocando strumenti di altre case. Questo, il collocamento, cioè la vendita, è l'ultimo dei passaggi del lavoro che compiono, perché preliminare è fondamentale la consulenza, perché avere una persona con cui dialoghi è fondamentale negli anni. Allo sportello bancario questo è molto meno presente, anzi quasi del tutto assente. Storicamente, ricordiamolo, le banche italiane hanno mantenuto alti tassi di redditività analoghi a quelli delle banche estere, solo che le banche estere operano quasi esclusivamente non sul mercato retail ma sull'investment bank, cioè aiutano per esempio le altre banche o le società a fare degli aumenti di capitale. Una banca guadagna anche 10 milioni di euro aiutando un'altra struttura a fare un aumento di capitale, un'operazione straordinaria che si concentra nel giro di una settimana, mentre strutture bancarie di reti promotori finanziarie, per guadagnare, per avere un fatturato di 10 milioni di euro, ci mettono più tempo, insomma. Ecco, diciamo che la struttura retail è molto meno redditizia all'estero rispetto all'investment bank. In Italia, con una minore attività da investment bank per le operazioni straordinarie, ci si è sempre concentrati su cosa? Sul grande giacimento italiano, sul petrolio dell'Italia, ossia il risparmio. Allora, gli alti tassi di redditività hanno portato a costi molto alti dei servizi bancari in Italia, che negli anni si sono prosciugati, si sono ridotti, l'abbiamo raccontato da questi microfoni più volte, togliendo molte commissioni, con l'intervento delle autorità di vigilanza, con grande attivismo anche del lato della domanda del mercato e con la partecipazione di tutti gli attori, non ultima anche la stampa. Ebbene, questo processo si è avviato nel corso degli anni ed è stato molto importante. Certo, non è del tutto completo, non è terminato, anche perché molto spesso le autorità di vigilanza, e quanto ci dicevamo durante il meteo, si occupano spesso del prodotto, perché sul prodotto, rispetto a un regolamento, possono intervenire e dire no, più uno non va bene, certo, facciamo più 0,5. Possono sanzionare, insomma, un comportamento, come dici. Noi quando andiamo a fare le nostre candid bank troviamo gente molto preparata dal punto di vista commerciale, che ti dice, bravissima a spiegarti che ti sta regalando, sembra che ti regalino di tutto, cose che mai avresti pensato di dover pagare per avere, tra l'altro, per esempio. Però molto meno preparata dal punto di vista consulenziale. Allora, certo, questa è la spia del fatto che l'interesse è tutto determinato alla vendita e non alla consulenza. Sarebbe più onesto dire, allora, visto che la MiFID prevede diversi livelli di approccio, noi non facciamo consulenza, noi vendiamo prodotti. Poi sono affari vostri. È che è un po' quel concetto della consulenza anglosassone, mi pare, Carlo Giausa, della quale discutevamo in un'altra sede. Insomma, c'è un modo per fare consulenza nella quale, come dire, il canale distributivo si toglie assolutamente la responsabilità di ciò che vende, nel senso che dice, guarda, su questo prodotto io te lo vendo, ma non ti posso fare una radicale consulenza, la restricted, me lo stava spiegando lei qualche giorno fa. Sì, questo lo riprendiamo sicuramente perché probabilmente sarà il futuro. La cosa che volevo sottolineare è che per una rete di promotori finanziari la MiFID ha avuto un impatto molto più limitato rispetto a una banca tradizionale. Perché? Il fatto di rilevare il profilo di rischio, l'esigenza del cliente, la situazione finanziaria, reddituale e patrimoniale è un po' nel DNA di questa categoria, che è abbastanza giovane dal punto di vista della sua nascita, che è comunque ventennale, e MiFID non ha fatto altro che confermare un'impostazione che l'albo dei promotori e la regolamentazione che è alle spalle dell'attività del promotore finanziario aveva già stabilito un po' di anni fa. Quindi da questo punto di vista il promotore finanziario è quello che probabilmente ha sofferto meno rispetto all'avvento di MiFID. Per quanto riguarda l'attività di consulenza, secondo me nel futuro, vedendo anche quello che sta succedendo per esempio in Inghilterra, la locale Consob, la FSA, ha stabilito che a partire dal 1 gennaio 2013 ci saranno due modelli di business possibili. Uno è quello che fa la consulenza ristretta. Cosa vuol dire? Vuol dire che devi dichiarare che nella tua attività di consulenza in materia di investimenti alla fine collocherai solo prodotti di casa. E l'altro è quello che si chiama di consulenza indipendente, che fa riferimento all'universo mondo degli investimenti, delle fabbriche, degli emittenti, ed è l'accento non sulla persona che fa un'attività, ma sull'attività stessa. Cioè tu puoi fare il consulente indipendente anche se appartieni a una impresa e non hai uno studio professionale da consulente indipendente. Per quello che riguarda la nostra esperienza, secondo noi chi fa questo mestiere, l'attività di consulenza finanziaria, deve avere quanti meno legami possibili con un'eventuale fabbrica di gruppo. Ciò non toglie che se la fabbrica di gruppo ha degli ottimi prodotti che un terzo valuta come tali, o che anche il consulente valuta come tali, possano essere prescelti, ma il vincolo della fabbrica di gruppo non ci deve essere, altrimenti devi rientrare, ma in maniera molto trasparente, esattamente come stanno facendo gli inglesi, nel modello di business che si chiama consulenza ristretta, in maniera ipertrasparente, altrimenti mi sembra veramente difficile che ci possa essere una sostanziale modifica. Questione è questa: essere trasparenti sul modello adottato, non il fatto sapere, che va bene uno lì, piuttosto che una. Alla fine avrò una persona molto seria di cui mi fido oppure di cui non mi fido, ma che alla fine mi vende i prodotti di casa. Mi va bene o non mi va bene? Se non mi va bene, cambio strada. Massimo da Rapallo, consulente indipendente, dice: con la MiFID sono aumentate le carte per le maggiori tutele, qui rafforzo quello che stava dicendo Carlo Giausa adesso, per le maggiori tutele fino a quando distribuzione e consulenza saranno collegate visceralmente sarà matematico non tutelare. Poi arrivano anche tanti altri messaggi da parte anche di, per esempio, Francesco da Napoli, un promotore finanziario, dice: purtroppo allo sportello non si riesce a fare consulenza finanziaria, non si fa, noi promotori invece la facciamo, veniamo spesso criticati e siamo un canale molto poco utilizzato. Ecco qua alcune delle vostre riflessioni, ce ne aggiungo qualcun'altra, insomma abbiamo già i suggerimenti per chi in viaggio, oppure possiamo, se sì, sentiamo un po' cosa succede sulle strade, poi Simone da Brescia, Roberto da Bologna, Alberto anche da Macerata, tra poco. Allora andiamo a Simone da Brescia perché voglio sentire in particolar modo cosa sta facendo, perché c'è Roberto, il nostro tecnico, che mi ha fatto ascoltare un rumore di fondo, ma sta... Sto tagliando le viti. Sta tagliando? Le viti, io produco vino, di Sherlock Conte mi conosce. Grande Simone. Ah, pure, oltretutto. Sì, quando abbiamo fatto la battaglia sul bond all'Argentina. Vabbè, l'ho fatta anch'io, Simone. Allora, Salvadanaio non è mai intervenuto? Cioè, solo con lo Conte l'ha fatta sì, la battaglia? No. Sono un po' offesa anche. ci dica un po', allora. Uno dei pionieri a intervenire a Salvadanaio quando conduceva ancora... Lo Conte, se pensi un po', se è 7 anni fa, e certo, come potrà mai dimenticare. Io produco vino zona Sirmione, insomma. Simone, ci dica un po', però. Ricordo. Ma guarda quanta gente ancora volte ti reclama, sì. Marco, io qua veramente... Sì, perché deve aiutarmi, perché allora io poi sono velocissimo, perché poi il tempo è sempre poco. Sì, infatti, ci dica. Ma alla fine è sempre un problema di costi. Allora, ultimo esempio, lo Conte lo sai, lavoro, faccio trading, faccio tante cose, no? Oltre che produrre il vino. Allora, tra l'altro un familiare che lavora in Unicredito, dato che lì c'è un responsabile di Fineco, ma la parrocchia è sempre quella, voleva dire su Fineco Unicredito, allora io ho un familiare che tutte le sere vedo, perciò interrompiamo e so il mondo bancario come funziona. Mm. Non parlo del gruppo Unicredito, però mi piace fare nomi e cognomi. Perché già qua cominciavamo a sudare, Simone, veda un po' lei. Allora, Monte Paschi di Siena, tra l'altro avete fatto un articolo su Plus, ha dato ragione alla mia teoria. Allora io vado a fare i collocamenti ai miei genitori Eni Green Power e poi per investire, ma datemi, loro sanno che insomma sono navigato, conosco la situazione, mi dicono ma no, perché fai Eni Green Power, è pericoloso, abbiamo noi un'obbligazione, ma il rischio, gli anni, quanti anni dura, non ti preoccupare, mandami le mail, guardo la mail. E la famosa, io faccio i nomi, Casa Forte, ti dà il 3% per 18 mesi e poi per 40 anni, mi sfugge, c'era l'articolo su Plus due sabato fa, prende il 2%. Mm-mm. Ma si fa proprio una cosa del genere? Ma signori, ci rendiamo conto che il problema, da quello che ho capito io, da chi lavora nel gruppo Unicredit, sono i costi. Io da un anno continuo a comprare obbligazioni RBS e Barclays, allora mi dicono ma è fallita una banca inglese. Sì, è fallita, ma l'ha comprata lo Stato. Sì, vabbè, non è fallita, intanto adesso cerchiamo anche di utilizzare le terminologie corrette, perché però Simone, insomma, adesso a prescindere dai prodotti, dalle singole banche, mi interessa proprio capire anche la modalità con cui le è stata data la consulenza. Intanto Carlo Giausa, vengo da lei, come dire, lui va lì, chiede di aderire ad un'offerta pubblica d'acquisto, una IPO, era quella di Enel Green Power, a prescindere dal titolo, e gli si dice no, prenditi un'obbligazione nostra che ha 30 anni, quindi intanto anche lì non è, come dire, esattamente un approccio corretto, perché dal mercato azionario a quello obbligazionario magari una persona che ha un certo profilo di rischio, quindi non lo so, insomma, come... Questo, allora, sicuramente nell'ambito di chi lavora negli intermediari finanziari esiste quello molto bravo che consegna il questionario MiFID, che perde un'ora, investe un'ora di tempo con il cliente, sceglie una forma di investimento che sia adeguata a quello che è il suo profilo, e qualche altro meno. Dal punto di vista del singolo caso, io francamente, Deborah, è difficile entrarci, perché è un ginepraio, cioè entrare sulla singola scelta di un singolo investitore che magari con quella persona ha un rapporto da tanti anni, io francamente su questo mi asterrei. Però dico che ho tanti colleghi nelle strutture degli sportelli, ho tanti colleghi nell'ambito dei promotori finanziari, ovviamente non sono tutti uguali. No, ma infatti è chiaro che poi qui ribadisco, tiriamo un pochino anche fuori per fare un ragionamento più complessivo, quelle che sono le criticità. Vedo anche che ci scrive chi invece ha tutte le sue dovute soddisfazioni appunto nel rapporto con e l'interlocutore bancario, lo sportello, e anche chi ovviamente ha il promotore finanziario. Marco, volevi? Dico, la testimonianza dell'ascoltatore, voleva un'azione, gli hanno proposto un'obbligazione. Può anche starci, nel senso che se il consulente, facendo bene il suo lavoro, valuta che quell'investitore, anche se desidera per esempio un'azione in fase di IPO, di collocamento, che è sempre un momento in cui si fa un grande battage, forse anche questo... Su quella lì poi è stato fatto un certo battage. Diciamo che si comprano troppo spesso le azioni in fase di collocamento, e non a seconda delle proprie necessità. Allora ci può stare che un consulente dica no, a te non va bene questa azione, ti deve andare meglio per te un'obbligazione. Questo in termini generali ci sta. Poi il caso specifico, forse non casualmente, ha portato il collocatore, la persona, a dire comprare la nostra obbligazione. Sentiamo Alberto da Macerata, che voleva intervenire sull'inchiesta di Altro Consumo. Sì, buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione, grazie per avermi richiamato. Io sono un operatore del settore, sì, quindi opero in un primario istituto bancario italiano e certamente il sistema deve crescere molto dal punto di vista della consulenza, però assicuro che perché questo è il mio lavoro, che per alcune fasce di clientela la consulenza già è molto sviluppata, è molto avanzata, è erogata in maniera appropriata e con grande professionalità. A, quale fascia di clientela, Alberto? Quella che ha un bel patrimonio da portarvi o magari insomma chi ha un risparmio un po' più piccolo non ha la stessa dignità? No, la dignità ce l'hanno tutti ovviamente. Ripeto che a volte sparare nel mucchio non individua bene le problematiche. Ecco, in alcuni, fatto salvo che, come dico, il sistema deve crescere molto, però in determinati ambiti la consulenza è già erogata in maniera, devo dire, molto avanzata. Qual è il suo rapporto con la MIFID, Alberto? Ci dica un po', per lei è una gran perdita di tempo far firmare tutti quei fogli alla sua clientela, oppure spiega esattamente a cosa serve quel regime di tutela? Per me professionalmente è un elemento di grande sicurezza, perché una volta condiviso con il cliente profilo di rischio, durata dell'investimento, scelte strategiche, asset allocation, in fin dei conti io la sera dormo sogni molto più tranquilli che non operando diversamente. Rubo solo un secondo dicendo questo, che a volte la formula della Candid Bank non sviscera appropriatamente tutte le situazioni, perché l'operatore che arriva da Mister X allo sportello può trovare una situazione che può essere la più varia. Il collega può essere un sostituto, può avere poca esperienza, però è il tipo di situazione che si può trovare un cliente qualunque, quindi non è che loro lo fanno apposta a trovare il sostituto quella mattina. Certo, però accetti la provocazione. ma certamente accetti anche la mia, Alberto, ci mancherebbe, siamo qua per vivacizzare il dibattito. Finisco, accetto la provocazione in questo senso. Probabilmente anch'io, se da Mister X arrivassi nella sede del Sole 24 Ore, faccio un esempio, e chiedessi a un interlocutore una qualche considerazione sul codice etico del giornalista, faccio un esempio, probabilmente potrei trovare anche lì delle sacche di inefficienza, quindi a volte venga a trovarci allora. Alberto, venga a trovarci. Alberto, devo salutarla, però mi è piaciuta moltissimo la sua provocazione, devo salutarla perché ho un minuto e mezzo di tempo, non riesco ad andare oltre. Facciamo un po' di sintesi rispetto a tutto quello che ci siamo detti questa mattina, Carlo Giausa, insomma, che cosa ci ha insegnato questa trasmissione? Allo sportello la criticità c'è, abbiamo capito le motivazioni, con il promotore finanziario qualche passo avanti rispetto insomma ad un buon rapporto di consulenza sicuramente si può fare, è stato fatto in passato, c'è adesso il nuovo traguardo più avanti della consulenza completamente indipendente, però un percorso un po' più complicato. Detto questo, che ci diciamo? Ma secondo me allora bisogna uscire, questa ovviamente è una rivoluzione culturale per il sistema finanziario italiano, da un equivoco che esiste in Italia così come esiste anche in altri paesi d'Europa, e cioè che la consulenza finanziaria che mi eroga un intermediario, quale che sia l'intermediario, sia gratuita. Perché purtroppo tutte le ricerche di mercato fatte in Italia, fatte in Germania, fatte in Inghilterra, ci dicono che oltre il 50% dei clienti pensa di non pagare nulla. Allora, se io penso di non pagare nulla, perché forse non sono disposto a farlo, non posso pensare di avere un servizio di livello come quando vado da un professionista che sia un avvocato o un commercialista. Per cui lo scenario che io vedo è esplicitare la commissione di consulenza anche nel rapporto fra banca e cliente, cosa che ovviamente sarà culturalmente lungo. Il tema del quanto costa la consulenza potrebbe essere oggetto di un'altra nostra puntata più avanti. Grazie a Carlo Giausa, ad Anna Vizzari, che purtroppo non sono riuscita a sentire nell'ultima parte della trasmissione, a Marco Lo Conte. Ci sentiamo lunedì con la previdenza complementare, perché esce una nuova guida pratica del Sole 24 Ore. Signori, buona giornata a tutti. Io domani non ci sono, ci sarà con voi Valeria De Rosa, però ritorno in questa postazione venerdì prossimo. Intanto, buona giornata a tutti.